ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Quest'oggi con noi c'erano anche i Beach Boys, grandiosi. Poi loro automaticamente ti fanno pensare al caldo, al sole, al mare, cose che in questo momento non abbiamo a disposizione. Allora, saluto il vinaio, dice, era il Flip Out Festival, è vero, non ricordavo esattamente il nome, dice, e c'erano anche Queens of the Stone Age, e ho finito le birre e i calippi dal caldo che c'era, e in effetti c'era un caldo mostruoso, l'unica persona che non sentiva questo caldo era il cantante dei Turbo Negro, e tra l'altro c'è stata anche molta interazione sul palco proprio tra Queens of the Stone Age e Turbo Negro, se non sbaglio, tipo che... ne parliamo un'altra volta. Saluto anche Vale da Pisa, non mi ricordo. Saluto Vale da Pisa, dice, non ti dimenticare del colbacco russo, detto Topa, che aveva il chitarrista. Eh sì, vabbè, vai Turbo Negro, sono belli così. Saluto anche Glam, dice, ma a parte il 1° giugno tornerete alla Flog, vero? Dimmi di sì, perché il 1° non potrò esserci e sto rosicando non poco. Io vorrei dirti di sì, assolutamente sì, ci saremo. Adesso magari passerà un po' di tempo, però noi certo che cerchiamo di continuare a fare le nostre serate, possibilmente tutti insieme. Bisogna vedere anche un po' da parte dei locali se c'è la disponibilità, ma i locali con cui abbiamo lavorato nel corso di questi anni sono sempre stati molto carini e speriamo che continuino ad esserlo. Intanto saluto anche Francesca, dice, anche il cielo piange con noi, speriamo per il 31. L'unica cosa che possiamo sperare per il 31 è che ci sia bel tempo, anche perché altre speranze, insomma, quelle ormai... saluto anche la Romagna Incarognita, dice, vogliamo i nomi. Saluto anche lo Sborone, dice, ma sei sempre in ritardo, guarda che ti licenziano. È vero, corro questo rischio, ma lo faccio molto volentieri, no, però nel senso, è uno si sveglia un po' in ritardo, corre, prende il treno. Il treno ogni tanto fa queste piccole soste che non capisci. E allora sei lì che aspetti di arrivare, intanto l'orologio va avanti, Gravelli ti chiama, dove sei? Anche questi momenti mi mancheranno, ve lo giuro. Sì. Ora vi lascio con una band australiana, loro si chiamano Airborne e ce li ascoltiamo con il loro ultimo singolo. Questa è Running Wild. Questa era La Glaciazione da Eclissi, il loro ultimo album. Ho visto diverse immagini del tour dei Subsonica, molto belle, loro come al solito sono molto bravi dal vivo, hanno un'energia incredibile e negli ultimi anni accompagnati spesso e volentieri anche da delle scenografie molto belle, quindi uno spettacolo da vedere, da sentire, da vivere, visto che non si può star fermi durante appunto i concerti dei Subsonica. Questa era La Glaciazione, ma parliamo anche di Beck, quel piccolo genietto che sta per tornare, anzi è tornato con un nuovo singolo. Se andate sul suo sito www.beck.com, allora troverete appunto la possibilità di ascoltare Chemtrails, che è appunto il suo nuovo singolo. E per quanto riguarda invece il nuovo album, dobbiamo aspettare fino all'estate, visto che Beck deve ancora finire 2-3 dettagli e poi, ripeto, tra poco arriverà anche l'album. Intanto, visto che abbiamo parlato di Beck, lo riascoltiamo con la sua Devil's Haircut. Something's wrong, cause my mind is spinning. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pocket. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. macchine, tra ancora una volta ritrovati con Wall of Fire. Mi saluto Ellie, la Square Sister numero uno, dice: ho trovato un video su YouTube dei Nightwish e sembra e sembra la colonna sonora di un film. Il titolo della canzone è While Your Lips Are, dov'è? Still Red. Ma qualcuno sa qual è il film? Fan dei Nightwish, aiutate questa simpatica ascoltatrice. Io non lo so, onestamente. Saluto anche Brutus, dice: finalmente un gruppo australiano originale, nuovo, con idee proprie. Sì, sì. Ma in effetti noi l'abbiamo sempre detto, dei come si chiamano? Mannaggia. Beh, insomma, di quelli che abbiamo appena passato, che sembrano praticamente gli AC/DC. Questa cosa l'abbiamo sempre detta, sicuramente non sono originali, sicuramente ricordano gli AC/DC, niente di nuovo, però insomma ci piace questa loro energia, ci piace anche il fatto che tantissimi ci hanno detto che dal vivo sono molto molto bravi, quindi insomma, nemmeno quante band fanno qualcosa di originale? O quante band copiano? Tante, quindi alla fine, però anche il modo in cui lo fai. E loro ci piacciono un sacco. Saluto anche Tina, dice: fai un saluto a tutte le sick girl all'ascolto, soprattutto alla blonde, ma certo, soprattutto alla blonde pitbull che noi amiamo e che noi adoriamo, alla quale mandiamo un bacione, chissà se l'ascolto. Se... saluto anche Cosi e saluto anche Lele da Firenze, dice: ho visto un video dei Dufresne e mi è piaciuto molto, sai dirmi qualcosa su di loro? Allora, sono italiani, arrivano dal Veneto se non sbaglio, hanno fatto diversi album e piacciono anche a noi, dal vivo sono molto molto molto bravi, sicuramente hanno una pagina MySpace e un sito, quindi, però si scrive Dufresne, non come l'hai scritto tu, con la E finale. Intanto vi lascio con una band che arriva dalla Nuova Zelanda, si chiamano Audio Empire, questa è The Great Escape. Yeah. oltre alla fragola. Contributo proprio da parte di Piero Pelù, quest'oggi con Tutti i Fenomeni, ovviamente il singolo tratto dal nuovo album. Ora c'è una piccola pausa, torneremo tra pochissimo con un classico, e quando parliamo di classici ovviamente parliamo soprattutto dei Rolling Stones, che tra poco riascolteremo con